Vendo tutto di Matteo Caccia. Mancano 2 settimane alla fine di questo programma. In 5 mesi ho venduto più di 100 oggetti, ho scritto decine di storie e ricavato quasi 5.000 euro. Ho conosciuto un bel po' di persone, spedito un sacco di pacchi e finalmente comincio a sentirmi più leggero. Quindi continuo, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Lo so, capita, succede a tutti. Stavolta è toccato anche a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, ne inizio una nuova io. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo un divano. A quel punto il mio anello iniziai a metterlo per le occasioni importanti, per le ricorrenze speciali. E da simbolo di realizzazione dei miei desideri, si trasformò in un oggetto di bellezza. Tuttavia, sotto sotto continuò a non farmi scordare i miei sogni. E in questi anni, anche grazie a lui, ho compiuto un percorso a ritroso, ricordandomi giorno dopo giorno il mio cuore, messo in un angolo. Mi sono tornate in mente immagini di fate, di folletti e di cavalieri valorosi, immagini di un mondo che sembrava dimenticato, fatto di coraggio e di libertà. Il mio anello ha assolto il suo compito, quello di non farmi dimenticare un tempo in cui tutto era possibile. Per questo motivo lo vendo, perché è finita la sua missione con me e per lui è ora di ricominciarne una nuova con qualcun altro. Una missione per fare ricordare una promessa. Pronto Simona, buongiorno. Ciao, buongiorno Matteo. Ciao, come stai? Bene, tu? Io benone, grazie. Abbiamo al telefono, per quelli che non l'avessero ancora capito, la vincitrice del concorso Vendo Anch'io, che è arrivata a Riva del Garda sabato sera. Anzi, in realtà sei arrivata venerdì, giusto Simona? Sì, sì, sì. Ti sei vista la diretta con il sole. E sì, poi nella serata di pioggia di sabato ci siamo rinchiusi in un posto al chiuso, ci siamo tutti quanti schiacciati e tu e gli altri 3 finalisti, perché Massimo purtroppo ha dato forfè all'ultimo momento, gli altri 3 finalisti che ricordiamolo erano Emanuele, Isabel e Nicola, avete la faggina, aveva paura non mi ricordassi i nomi, in realtà ormai sono praticamente miei fratelli. La giuria ha decretato che la vincitrice del concorso Vendo Anch'io era Simona. Simona aveva scritto un racconto su un anello che è andato venduto. Ti ricordi, Simona, quanto l'abbiamo venduto il tuo anello? Lo sai che non mi ricordo esattamente. A me pare attorno ai 70-80 euro. Ecco, sì. Tra l'altro ho saputo, mi ha scritto sul profilo Facebook la figlia del signore che ha comprato il tuo anello, che era lì con la moglie ed erano a fare un weekend a Riva del Garda, che mi ha detto che non solo il padre era molto contento e ha voluto una copia del tuo racconto che gli ho mandato senza il tuo permesso, ma la moglie era molto contenta perché pare che non gli avesse mai regalato un anello in vita sua, quindi è stata un'occasione buona per te e per loro. Già che ci siamo, Simona, ricordiamo innanzitutto qual è il tuo desiderio. Il mio desiderio è andare a New York. E andare a New York. Sì. E direi che quasi in maniera inaspettata ci siamo andati vicini a racimolare la cifra, perché, sì, ricordo velocemente, abbiamo venduto una borsa, che era la borsa di Emanuele, una borsa arancione da un paio di giorni, direi, a 40 euro. Il tuo anello 75-80. Il trolley di Isabel, che è il trolley con cui lei è venuta dall'Ecuador qui in Italia nel 1995, a 57 euro. E poi la chitarra di Nicola attorno agli 80, mi pare. Insomma, se non ricordo male però, Simona, la cifra totale è 271. Sì, 276 euro. 276 euro, che noi abbiamo infilato nel portamonete di Vendo Anch'io e tu ti sei portata a casa. Ci sono, per chi le volesse vedere, ci sono le foto su Facebook in cui mi viene da dire il presidente della giuria, ma non aveva il presidente della giuria, aveva solo dei giurati. Comunque Costantino della Gherardesca dà nelle tue mani il premio di Vendo Anch'io. Simona, come tu hai fatto una faccia quando Costantino ha aperto la busta, il momento The Winner Is, e ha detto Simona Fabbri, tu hai fatto una faccia come dire, secondo me hanno sbagliato. Sì, pensavo fosse uno scherzo. non ci credevo. Io ho scritto il racconto così, per il piacere di partecipare. Quindi per me la vittoria era stato sapere che ero arrivata tra i 5 finalisti. Senti Simona, a questo punto però noi vogliamo sapere quando vai a New York. Cioè non pensare che ti intaschi sti 276 euro e ci fai la spesa per 4 settimane. No, è una promessa questa. Guarda, noi prima con Tiziano eravamo qui in studio e stavamo guardando dei prezzi per New York. Abbiamo deciso che potresti andare a ottobre, ad esempio. Non so perché, però abbiamo deciso che ottobre costava un po' di meno e che magari tu riesci a pigliarti un po' di vacanza. E vedevamo voli addirittura senza scalo, quindi all'Italia, Milano, New York, se li prenoti con un po' di anticipo, sui 400 euro li porti via. Infatti, guarda, quello è proprio il periodo che a me piacerebbe. Vedi, guarda. Sì. Cosa vuol dire capirsi tra i propri ascoltatori e i propri conduttori? Senti, Simona, io adesso ti lascio andare, ti saluto che vado avanti col programma. Prima però di farlo, visto che oggi vendo un divano, che è un divano letto, che è un oggetto che io ho un po' amato e un po' odiato, perché quando hai un divano letto e la gente lo sa, comincia ad arrivare e tu ti trovi questi che ti dicono: guarda, sto un paio di giorni. Ma guarda, 3 giorni e poi me ne vado. E oggi è proprio di questo che vorremmo parlare. Tu hai mai avuto qualcuno che ti sei piazzato in casa e nemmeno con le bombe l'hai schiodato? No, guarda, solo la nonna qualche mese, però... Vabbè, però la nonna non vale. La nonna. Mica vorrei schiodarla con le bombe, no, la nonna. Però tu hai avuto... di solito è il contrario, di solito è il nipote che va ospite della nonna. In quel periodo della sua vita aveva bisogno di un posto e quindi è venuta lei. E tu l'hai ospitata? Sì, ed è stata qualche mese ed è stato bello averla in casa. Beh, immagino. Simona, io ti ringrazio ancora per essere venuta a Riva e mi raccomando, facci sapere cosa ne fai, lo sappiamo, vai a New York, quando parti e poi com'è andata. Sicuramente, io ringrazio ancora te e tutte quante le persone che lavorano con te. E qui violini sotto. Grazie Simona, buona giornata. Ciao, alla prossima. 800 24 00 24, 349 238 6666. Avete presente quegli amici che poi ancora gli amici, ma gli amici degli amici? Senti, ho un colloquio di lavoro da fare a Milano, a Roma, a Bologna, perché poi se stai in una città in cui in teoria c'è lavoro è più facile, no? Ti spiace se sto, guarda, una notte a casa tua e te li trovi per 2 settimane di fila? 800 24 00 24, 349 238 6666. Ci sono anche dei casi limite, tipo vieni cacciato fuori di casa, o l'amico viene cacciato fuori di casa dalla moglie o dal fidanzato e chiaramente c'ha bisogno di un posto. Se però poi la crisi dura 2 mesi, tu ce l'hai in casa, te lo devi sorbire. 800 24 00 24. Oggi parliamo di storie di ospiti che hanno approfittato della vostra ospitalità. 349 238 6666, oppure 800 24 00 24. Parliamo invece del mio di divano letto. Per vederlo è sul sito radio24.it oppure sul profilo Facebook Matteo Caccia Avendo Tutto. Per sentire la sua storia, state lì. Il divano letto. Divano letto 2 posti, colore bianco. Dimensioni: larghezza 150 cm, profondità 86 cm, altezza 91 cm. Profondità sedile 60 cm, altezza sedile 47 cm. Larghezza letto 120 cm, lunghezza letto 196 cm. Dotato di contenitore sotto il sedile e, grazie alle dimensioni ridotte, si adatta anche ai piccoli spazi. Ottimo per ospitare una persona o per chi si senta stretto nelle sistemazioni definitive. Valore commerciale 299 euro, base d'asta Avendo Tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Quello che vendo oggi non è un divano qualunque, è un divano letto. Il divano letto è uno scotto che tutti prima o poi abbiamo dovuto pagare in un determinato periodo della nostra vita. Di solito quel periodo è quello che va dall'uscita di casa dei propri genitori al reperimento di una sistemazione stabile. Il divano letto diventa quindi una specie di misura della nostra determinazione. Cioè, meno tempo abbiamo passato su un divano letto e più siamo persone equilibrate, con forza di volontà e poca voglia di cincischiare in giro. Se invece per anni siamo passati da un divano letto all'altro, con la promessa che prima o poi avremmo trovato una stanza in affitto, abbiamo meno idea di cosa vogliamo nella nostra vita. Ecco, proprio per questo motivo, io il divano letto l'ho sempre odiato. Ogni volta che mi svegliavo con la schiena a righe e le ossa rotte, mi domandavo: ma perché? Primo, perché i divani letto hanno sempre un punto che ti si conficca nella schiena, ma soprattutto perché a 30 anni stessi ancora dormendo su un divano letto. Poi oltretutto non sopporto nemmeno la fretta tipo profugo che ti obbliga a nascondere il luogo dove hai trascorso la notte chiudendolo subito, appena ti sei alzato, per evitare di ingombrare tutta la stanza, altrimenti i padroni di casa ci avrebbero messo un letto lì, giusto, e non un divano. A me piace il letto perché ti ci puoi appoggiarci le cose anche solo momentaneamente, ti ci puoi sedere per fare una pausa o addirittura sdraiartici se vuoi fare una pennichella. Cioè, il letto non è solo il luogo della notte, è uno spazio a tutti gli effetti che puoi sfruttare come e quando vuoi. divano letto invece è una specie di grifone, una roba con la testa di divano e il corpo di letto, che non è mai né l'una né l'altra cosa. E poi c'è un'altra caratteristica del divano letto, è il lenzuolino. C'è sempre un lenzuolino giusto giusto per il materasso del divano letto, che non è un materasso di misura, e quindi una volta che hai individuato il suo lenzuolino, quello giusto, rimane sempre quello e viene assegnato al divano letto. Ecco, quel lenzuolino non è che lo ritiri nell'armadio, no, rimane sempre chiuso dentro al divano e ogni volta che lo apri ci trovi dentro dei mondi sconosciuti. Insomma, non ho un buon rapporto col divano letto, eppure in un modo o nell'altro è sempre stato una presenza costante e quasi salvifica nella mia vita. Quindi in fondo, al divano letto che vendo oggi, anche se è piccolo ed è svedese, ci sono affezionato. C'è stato un periodo della mia vita però in cui ho scoperto che non avere il divano letto era un vantaggio. È stato quando ho capito che non avere un altro posto letto disponibile avrebbe evitato che la casa mi si riempisse di ospiti indesiderati. Allora la cosa è così, immaginatevi di vivere in una grande città, una città in cui ci sono delle cose da fare, ma soprattutto dove una stanza d'albergo costa non meno di 150 euro. Poi ci vivete da qualche anno e in casa avete un posto letto che balla. La prima volta ho ospitato un amico, perché è un amico, e doveva venire a Milano a fare un paio di colloqui di lavoro. Voi all'inizio siete pure contenti, vi fa piacere avere quell'amico lì che non vedevate da un sacco di tempo in casa. Poi lui inizia a lasciare i calzini in giro, i peli nel lavandino e usa pure il vostro accappatoio. Al terzo giorno sperate che i suoi colloqui gli vadano male, per evitare che ritorni in città. Quando torna a casa, poi, e un amico comune ha bisogno di stare una notte a Milano, senza spendere troppo magari, lui ovviamente gli fa il vostro nome, perché comunque in quei tre giorni con lui siete stati pure cortesi, e lui dice che avete un divano letto che è sempre disponibile. E la notizia inizia a girare. Prima gli amici, poi gli amici degli amici, e poi i parenti degli amici. Il finale di questa storia è che voi, pur di non avere un posto letto in più, vi liberate di quel divano letto e comprate una poltrona, dove non ci si possa nemmeno stare sdraiati. Ecco, questo è quello che è successo a me per qualche anno. Poi è arrivata Giulia. Lei era una persona molto pratica. Mi disse che non potevamo non avere un posto letto in più per amici o parenti, che Milano era una città grande, che poteva capitare che qualcuno avesse bisogno di stare ospite per qualche notte, no? Io le dissi che era proprio per quello che invece dovevamo guardarci bene dal prendere un divano letto. Ma lei mi guardò con aria di compatimento e quindi andammo a comprare il divano letto. È un divano minuscolo, però in due ci si sta comodi. Ha un sistema per farlo diventare letto che è effettivamente molto ingegnoso, quasi istintivo, a differenza degli altri divani letto che ci vuole un ingegnere per aprirli. Ma soprattutto mi è stato utile nelle ultime sere di convivenza con lei, quando dopo le litigate quotidiane né io né lei avevamo alcuna intenzione di condividere lo stesso letto. Ed era praticamente scontato che sul divano dovessi dormirci io. Quindi, nonostante il suo costante sapore di precarietà, questo divano letto è in vendita. Il suo valore è di 299 euro, la base d'asta sono 99 centesimi. Se avete storie di ospiti che hanno approfittato della vostra ospitalità, 80024 0024. My 349-238-6666, Riccardo da Udine. Io ho passato 2 settimane a Roma Cinecittà, a casa di una mia amica su un divano, non un divano letto, perché non avevo trovato una stanza in tempo. E ho sofferto da morire, però è stato il periodo più bello del mio soggiorno romano, perché in quella casa di cineasti respiravo l'odore del cinema che avevo sempre sognato. Ecco, questo è un altro problema del divano letto, che ti dà delle fantasie, ti fa venire delle speranze che purtroppo poi non si riescono probabilmente a mettere in pratica, perché dà quella sensazione di essere lì e poterci stare, e poi in realtà proprio non ci puoi stare. 800240024, andiamo a Pordenone e sentiamo Pietro. Pronto Pietro? Pronto. Ciao, buongiorno, ci sei? Buongiorno, ci sono. Buongiorno. Raccontami un po' questa tua storia di ospiti incalliti. Allora, niente, è successo che con un carissimo amico, poveretto, che è morto, noi si era giovani e siamo andati a trovarlo e abbiamo imbastito una storia con questa ragazza. Sì. Qua. E su Pietro, quel divano lì, e lei poi non poteva più tornare a casa perché lei era sposata. E allora Pietro, allora lui, c'è una sofferenza in questo racconto incredibile. Che, spero sia andata a buon fine alla fine questa storia. Sì, poi questa storia qua è andata a finire così che noi è stato così gentile e così di buon cuore che noi in quella stanza con quel divano ci siamo rimasti. Lui ci guardava e era un po' contento che fare il tifo per la nostra storia che andava avanti bene, ma poi mica tanto, poi perché dopo, insomma, morale della favola, a un certo momento ha cominciato a prendermi un po' in giro, non in giro, ma a svelare alcuni... Sì, che cosa, Pietro? Nell'intimità noi ci si dava alcuni nomignoli così. E lui li conosceva? E lui li conosceva. Ok, ci siamo arrivati. Vi spiava nell'intimità. Alla fine ve ne siete andati, immagino, Pietro. Effettivamente, Pietro, dalla flemma che tu hai posso immaginare che ve la prendeste abbastanza comoda. Io ti ringrazio molto, buona giornata. Ciao, grazie. Andiamo da Manuela a Cuneo. Pronto, Manuela? Ciao, sono Manuela da Cuneo. Ciao, Manuela da Cuneo. Io sto bene, tutto ok? Ti racconto la storia velocissima. Bravissima, okay? Bravissima. Allora, amica Fabiola di Pugliese, veramente tacchente, viene a trovarci, ma si diceva per un pomeriggio, invece poi mentre sta da noi ci dice: ah, ho litigato con il mio amico che mi ospitava, tutto un po'. Io dico: ok. Quindi con l'inganno anche. Sì, con l'inganno, subito. Allora, noi abbiamo chiaramente una stanza per gli ospiti, perché i miei genitori abitano fuori, quindi quando vengono a trovarci, e quindi mi faccio: tranquilla, stai pure. Il problema è che in quel periodo lì, l'amica, quella che vive con me, aveva appena smesso di fumare, no? E questa era una fumatrice incandita, per cui lasciava sigarette ovunque. E l'altra c'è ricaduta, torni, immagino. È subito, guarda, tempo zero. Come l'hai mandata via, Manuela? E l'ho mandata via perché gli ho fatto una volta che lei non c'era, perché poi mi ha fregato anche la macchina. Insomma, robe orribili. Come l'hai mandata via? E gli ho fatto le valigie, gliel'ho messe fuori con un biglietto e ho detto: non sei più gradita qua, punto. Manuela, fatti vedere. Lei ci ha telefonato mille volte, poi ha detto: senti Fabiola, mi dispiace, io te l'ho visto, non hai capito. Manuela va avanti, va benissimo. Manuela, grazie mille, buona giornata e saluta Fabiola. Grazie a te, a Laura Faggina, a Tiziano Bonini, al Genovesi e a Rudy, Fabio Candadori. Il divano è sul sito, ovviamente. Domani invece vendo uno zerbino. Dicono che con l'estate inizia l'anno nuovo e quindi voi approfittatene e liberatevi delle vostre vecchie cose. Love, love, love.